Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Insomma, siamo pronti per iniziare. Benvenuti a tutti a Mebius, ma io sto aspettando Federico qui in studio e non arriva. Sono soltanto una voce, sono un po' ammalato, però sono lì. Sono molto più rilassata. Mi farai da guida allora. Esatto, soltanto così con la voce. E allora? I titoli. Esatto. Intorno alla Costa Concordia c'è un tesoro di specie rarissime, coralli neri e gorgonie dorate. Quali sono le condizioni di salute di questi fondali? E le tecniche di recupero della nave preserveranno questa biodiversità? Questa settimana Franco ci pone un increscioso problema di forno a microonde. Il cibo non si cuoce, invece il piatto si rompe a causa del forte calore. Come mai? Intelligenza collettiva. Il fisico Michael Nielsen spiega in un libro come la condivisione della conoscenza favorita da internet stia rivoluzionando il modo di fare scienza. Molti la definiscono la missione più difficile per la ricerca scientifica: scoprire cos'è la coscienza. Il funzionamento dell'anestesia potrebbe fornirci una parte della soluzione. Federico, direi di iniziare con un elemento di attualità. Insomma, in questi giorni si sta parlando di rimuovere lo scafo della Costa Concordia all'isola del Giglio e, insomma, qui a Mebius vogliamo un po' fare il punto, cercare di capire tecnicamente che cosa si potrebbe fare. Capire che cosa significa questa cosa, perché per tanto tempo ci hanno detto che questa nave era addirittura monitorata da sistemi di sensoristica che ci dicono se si sposta anche di un centimetro. Ci stiamo domandando se come è possibile smontare un oggetto di questo genere senza che precipiti giù e quindi che lo scafo vada a mettersi in una situazione in profondità dal quale probabilmente è impossibile rimuoverlo facilmente. Insomma, questo è il tema. E tu dicevi che sono stati presentati delle proposte, no? Sì, il 3 marzo è scaduto il termine, sono state presentate 6 proposte alla Costa Concordia e a un comitato scientifico della Protezione Civile. Le società che potevano concorrere, diciamo, a questa grossa impresa erano 10 in tutto il mondo. Alcune si sono messe insieme, insomma, alla fine sono state presentate 6 proposte. Sono state fatte delle ipotesi che adesso vaglieremo, per cui alcuni dicono che si potrebbe tagliare a pezzi, ma forse no, altri che si potrebbe mettere in piedi e portare via e carrozzarla via, oppure addirittura riempirla di palline di polistirolo. Insomma, vediamo un po' come potrà essere recuperata, appunto, forse nel giro di un anno, e lo chiediamo a un professore che si occupa, di un ingegnere che si occupa appunto di progetto della nave presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, che è l'ingegner Carlo Podenzana. Buonasera, Podenzana. Buonasera. Podenzana, vogliamo incominciare da questo tema, cioè la fragilità dei movimenti dello scafo. Ci hanno detto che per un non nulla potrebbe precipitare più giù. Io ritengo che non sia una cosa molto probabile, anche se le informazioni ovviamente che si hanno, che io ho, non sono certamente complete, perché ritengo che il peso della nave che grava sullo scoglio, sugli scogli, sia di entità talmente elevata che sia difficile pensare uno scorrimento. Uno scorrimento spontaneo legato alla situazione del mare, che peraltro non è sempre stato calmo in questo periodo e non sembra che abbia creato dei movimenti significativi. Quei movimenti di cui si parlava, di cui ho sentito parlare anche di entità millimetrici, io penso che possano essere in soprattutto degli spostamenti locali delle strutture, perché una struttura come quella della nave Concordia è una struttura molto leggera, molto deformabile, elastica, per cui con assestamenti che ci sono proprio per la posizione innaturale in cui la struttura si trova, ci sono delle deformazioni, ci sono degli spostamenti quindi locali, non dell'intero scafo, che possono essere tranquillamente di quell'ordine di grandezza. No, ecco, mi dica se sbaglio, ma forse quegli scivolamenti millimetrici, quegli spostamenti minuscoli erano preoccupanti nel momento in cui si facevano, come dire, i primi soccorsi. E Podenzana, queste 6 buste famose, questi 6 progetti che sono stati consegnati per il recupero sono top secret, questo non l'avevamo detto, quindi ancora non si conosce il contenuto e la modalità con cui verrà rimosso, si saprà qualcosa tra circa una decina di giorni. Possiamo fare delle ipotesi invece su dei casi simili, su come sono stati rimossi degli scafi così grossi? Direi che in linea così generale, se si pensa a un recupero, quindi a portare via il relitto per poterlo poi o riutilizzare o demolire in altra sede, quindi non operazioni di demolizione sul posto, le procedure sono abbastanza standard, molto semplici da descrivere, poi certamente non semplici da attuare, ma sostanzialmente quello che si deve fare è chiudere il più possibile in maniera stagna le falle che si sono verificate, quindi ripristinare la tenuta stagna dello scafo nella misura maggiore possibile. Svuotare a questo punto i compartimenti dell'acqua e eventualmente anche di altri elementi per alleggerire la struttura. A questo punto aiutare la struttura a tornare a galleggiare con l'aggiunta di cassoni di spinta, quindi di elementi che si aggiungono alla spinta naturale che lo scafo esercita. Quando ho sentito parlare di riempimento con polistirolo, è uno dei mezzi che si possono utilizzare per dare una maggiore spinta a certe porzioni dello scafo, quindi comunque ripristinare la capacità di galleggiare, ovviamente tenendo sotto controllo la stabilità dell'equilibrio, perché la nave deve tornare a galleggiare ma non deve certamente inclinarsi ulteriormente, capovolgersi, cose di questo genere, e una volta che è galleggiante è rimorchiarla via e poi trascinarla dove si ritiene di poter intervenire, ripeto, o per un recupero vero e proprio oppure per una demolizione. Quando fosse messa dritta, sì. Poi trasportarla credo che sia una cosa che avvenga a due nodi all'ora, no? E dove è il massimo di carenaggio dove si può portarla? Dipende da che cosa se ne vuole fare. Se si pensa a una demolizione, visto che le demolizioni si fanno in alcuni paesi, diciamo in maniera prevalente, potrebbe essere, non so, la Turchia, per esempio, per rimanere nel Mediterraneo, perché non penso a rimorchi molto più lunghi. Tipicamente le navi si demoliscono in Pakistan, in Bangladesh, in India. Quindi non in Italia. Non in Italia. No, in Italia ormai è un'attività che non si svolge. E invece l'ipotesi dello smantellamento sul posto, insomma farla a pezzettini. Io leggo qua una dichiarazione ad esempio di una delle aziende più importanti che dice ci è stato detto che la nave deve essere rimossa intera, per ora non prendono in considerazione l'ipotesi di farla a pezzi. Come mai? Ma io credo che i motivi possono essere essenzialmente due, perché i tempi di intervento molto lunghi e non so quanto siano compatibili poi con le condizioni meteomarine che nel frattempo si svilupperanno, quindi un'operazione che andrebbe avanti moltissimo tempo le vedo abbastanza improponibili già per i tempi e per le condizioni, però direi che ci sono due aspetti. La prima è lo sversamento di materiale inquinante che fatalmente ci sarebbe in una demolizione sul posto, perché sulla nave al di là del combustibile ci sono tantissime sostanze che sono inquinanti e che andrebbero fatalmente disperse più o meno in quantità elevate durante una demolizione sul posto. Secondo è che non so quanto sia facile impedire che queste varie porzioni di nave via via rimosse e quelle via via restanti non scivolino davvero a questo punto durante le operazioni in fondali più profondi. Va bene, grazie Podenzana, buon lavoro e arrivederci. Grazie a voi e buonasera. Adesso Federico andiamo al traffico e vediamo poi se questi metodi di rimozione possono in qualche modo danneggiare i fondali così preziosi che ci sono sotto al giglio. Questa è l'altra faccia della vicenda, vediamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo al giglio, questa volta appunto per parlare della ricchezza e della bellezza dei fondali che ci sono purtroppo anche sotto la chiglia della Costa Concordia. Federico, tu ci sei? Ci sono sempre, sì, e vorremmo capire adesso che cosa può succedere anche a seguito delle operazioni di rimozione dell'intero scafo. Più che altro si spera che insomma non venga danneggiata più di quello che è. Ma insomma andiamo a sentire chi queste ricerche per l'Istituto Superiore della Protezione per l'Ambiente, cioè l'ISPRA, ha svolto ricerche, e anche loro, ti dirò, sono rimasti sorpresi di quello che hanno trovato. Ce lo facciamo raccontare dal ricercatore che ha svolto appunto lo studio, Simone Pietro Canese. Buonasera. Buonasera. Insomma, siete rimasti sorpresi anche voi, Canese, da quello che avete scovato intorno al Concordia e nelle coste del Giglio? Beh, Certo, noi sappiamo che l'Isola del Giglio è un sito molto importante, un sito di immersione per molti subacquei e la ricchezza delle coste è un dato di fatto. La cosa molto interessante è che noi nella parte del nostro studio abbiamo preso in considerazione anche tratti di mare più profondi, quelli sotto ai 30, 40, 50 metri. Abbiamo lavorato e studiato fino a un centinaio di metri di profondità. Andando ad esplorare queste zone, abbiamo trovato a poche centinaia di metri dalla poppa della nave una bella prateria di corallo nero, che è un dato molto, molto interessante. In un'altra zona poco distante, un'altra prateria un po' più piccola, però sempre corallo nero molto bello. Abbiamo trovato una gorgonia molto rara, la Cantogorgia hirsuta, una gorgonia dorata molto molto bella, che forma anche quella una prateria, e anche questa è una cosa molto importante. Nel caso per esempio del corallo nero è anche una specie di interesse conservazionistico, ecco, presente in numerose liste di convenzioni. Al comandante Schettino, insomma ai dirigenti della nave, viene anche imputato un danno ambientale della nave. Vuol dire che in qualche modo già c'è stato un impatto purtroppo negativo per quell'ambiente? Beh, sicuramente diciamo l'impatto meccanico della collisione c'è. Sicuramente la nave sta appoggiata sopra una prateria di Posidonia, che è un habitat protetto importantissimo, e per cui questo è un altro danno. Non sappiamo che cosa può succedere nel tempo. Adesso tutte le analisi di monitoraggio che ISPRA e ARPAT stanno conducendo dicono che adesso la situazione è perfettamente sotto controllo, non c'è stata nessuna fuoriuscita di idrocarburi, insomma, a parte qualche valore tensioattivo e altre cose, però io giudico per adesso di poca importanza. Ecco, la salute del mare e dei fondali è buona in questo momento? In questo momento sì, le biocinosi che abbiamo trovato sono in un ottimo stato di salute. Noi abbiamo lavorato a pochi giorni dall'impatto, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Abbiamo fotografato con precisione, diciamo quasi centimetrica, vari tratti del fondale, esattamente in 13 punti da nord a sud dell'isola, sul lato orientale, e torneremo presumibilmente penso nel mese di maggio. Ritorneremo nei soliti posti, alla solita profondità, e andremo a rifare le stesse fotografie. Questo ci permetterà per esempio di vedere se c'è un cambiamento significativo rispetto a quello che abbiamo visto a gennaio. La situazione deve essere tenuta sempre sotto controllo, non sappiamo che cosa sta succedendo dentro la nave e che cosa può succedere nei prossimi mesi. Io vorrei dire agli ascoltatori che Canese ci ha inviato qualche foto di queste belle specie che ha trovato, soprattutto i coralli neri e le gorgonie dorate, quindi chi voleste sul nostro sito www.moebiusonline.eu le può vedere. Con anche una particolarità, il corallo nero da vivo è bianco. Certo, questo è un classico. Il corallo è nero perché ha uno scheletro nero, però quando è vivo è ricoperto da una, non si può dire pelle, però facciamo finta che sia da una pelle bianca. Per cui quando è vivo è bianco, bellissimo. Quando poi è morto si vede lo scheletro nero. Ecco, quindi cercatelo, è la foto con il corallo bianco. Va bene, grazie Canese, buon lavoro, ci risentiamo presto allora. Va bene, grazie mille e una buona serata. Cambiamo completamente argomento, Federico. Musica e matematica. Se ti dico musica e matematica, cosa mi dici? Mi viene per forza in mente il bolero di Ravel, perché Barbara Gallavotti adesso ci parla di questo rapporto. Io posso solo ricordare che Arturo Toscanini agiva sul bolero di Ravel accorciando nei tempi, e Ravel si arrabbiò in un modo tremendo, fece una scenata a Toscanini e l'esecuzione diventò normale. Invece quando parliamo di musica e matematica diciamo che l'accostamento è sempre intrigante, e lo hanno raccontato, ti contestualizzo il servizio di Barbara Gallavotti, ad una conferenza che si è svolta a Palermo nell'ambito di un festival della scienza dedicato alla matematica, e Luigi Dei, un fisico piuttosto importante nel nostro paese, ha tenuto una conferenza proprio sul bolero di Ravel, la storia scientifica di un puzzle fisico e matematico. Cosa racconta questa storia? Ce lo dice Luigi Dei. Questa storia racconta da un punto di vista scientifico che cos'è il suono e la musica, e come il suono e la musica non sono altro che energia che si propaga attraverso la materia, e quindi racconta la storia degli strumenti così come sono presentati nella partitura del bolero. Cominciamo dall'attacco. Cosa ci dice la matematica di questo attacco? Questo attacco è puro ritmo, ma il ritmo in musica non è altro che il numero. Infatti ci sono dei colpi che durano una certa quantità di tempo, per esempio mezzo secondo, il primo colpo, e poi però ci sono tre colpi insieme che durano come durata di tempo come il primo colpo, e quindi un sesto di secondo. Quindi il ritmo è frazioni e numeri interi. Però poi nella musica, lo sappiamo, non c'è solo il ritmo, c'è anche la melodia. Questo flauto cosa ci dice dal punto di vista matematico? La melodia non è più solo ritmo. È vero che nella melodia i suoni durano una certa quantità di tempo, Però i suoni sono diversi l'uno tra l'altro, sono più acuti o più gravi. Ma che cos'è che determina l'acutezza o la bassezza di un suono? È il numero di oscillazioni dell'aria che si propaga nello spazio. E quindi ogni nota avrà il suo numero di oscillazioni, che in gergo si chiama frequenza e si misura in hertz. Quindi la melodia, il ritmo sono tutti aspetti della musica riconducibili alla matematica. Ma se cambiamo strumento, abbiamo sentito il flauto, nel bolero ci sono anche altri strumenti ovviamente, c'è per esempio il clarinetto. La matematica ci spiega perché il clarinetto è diverso dal flauto? E certo, perché come avete sentito il clarinetto ha fatto esattamente la stessa melodia, la stessa canzone del flauto, però noi abbiamo sentito qualcosa di diverso. E cos'è questo qualcosa di diverso? Non è il ritmo, non sono le onde più acute o più gravi, è semplicemente la forma dell'onda, cioè il flauto fa un'onda con una certa forma, diciamo molto tranquilla, il clarinetto fa un'onda per esempio molto più seghettata. Ecco, ma ci tolgo una curiosità, perché tutti questi rapporti matematici sono quelli che ci rendono familiare la musica occidentale, ma esistono anche nella musica, non so, coreana, giapponese, cinese, quel tipo di musica che ci suona in maniera un po' diversa? In realtà è diverso il modo di dividere la scala dei suoni, quindi di nuovo sono i numeri a determinare questa divisione. Noi abbiamo una scala divisa in un certo modo, gli indiani hanno una scala divisa in un certo altro, i cinesi in un altro ancora, i coreani in un altro ancora. Però è vero che in tutte le culture alla fine c'è un problema di percezione sensoriale, per cui noi gradiamo un suono e diciamo che lo stesso suono è lo stesso quando è per esempio un'ottava più in alto. Ma alla fine questo bolero come finisce? Sentiamolo. Cos'è accaduto, Luigi Dei? Come avete sentito, dalla pura quantità iniziale siamo passati alla qualità dei vari strumenti, e poi il bolero, quando tutti gli strumenti suonano insieme fortissimo, ritorna pura quantità, perché non siamo più in grado di apprezzare la singola qualità dei vari strumenti quando suonano tutti insieme. Luigi Dei, qual è il prossimo progetto? Ha un proseguimento questo suo studio degli aspetti matematici, questo suo racconto degli aspetti matematici della musica? Se con il bolero io ho trattato pressoché tutti gli strumenti, ne resta fuori uno, è veramente importante e forse il più affascinante, che è la voce. Infatti sto lavorando ad un progetto che si chiama Da Schubert a De André, il mistero della voce e musica, che verosimilmente porterò al prossimo Festival Internazionale della Scienza di Genova. E intanto, arrivederci, Luigi Dei. Arrivederci a voi e grazie. Scacchisti all'ascolto, prendete i cellulari e preparatevi, perché il quiz questa volta è per voi. Un po' di anni fa il grande giocatore di scacchi, Garry Kasparov, considerato il più grande di tutti i tempi, giocò una strana partita a scacchi. Contro chi? Risposta numero 1. Contro decine di migliaia di persone, che inviavano le loro mosse via internet. Scriveteci migliaia. Risposta numero 2. In un teatro di Mosca, contro sua mamma, dalla quale aveva appreso il gioco degli scacchi. E ci scriverete mamma. Risposta numero 3, contro un robot progettato in Cina, e ci scriverete robot. Mandateci quindi un SMS con la risposta giusta al 349-238-6666. Il libro in palio questa settimana è Una piramide di problemi, di Claudio Bartocci, edizione Raffaello Cortina. Claudio Bartocci è nostro ospite tra poco, e il libro è offerto da Libreria Rizzoli. Fate veloce! Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È giunto il momento della domanda dei nostri ascoltatori, Federico, e ci tocca chiamare Alberto. Io vi lascio, non sto molto bene, e quindi è meglio che non senta le tremende che dice Alberto sempre all'inizio in questi casi. Ti capisco molto bene, me ne andrei anch'io. È arrivato, ciao Alberto. Eccomi qua, ciao Federico, buonasera a tutti. Vi lascio, ciao. E finalmente arriviamo alla domanda degli ascoltatori, che anche questa settimana ci hanno scritto sulla mail mebius@radio24.it, ma anche su Facebook, Mebius Scienza, Moebius Scienza, ed è di nuovo una domanda che scotta. Di nuovo una domanda gastronomica. Franco, lei in collegamento collegamento con noi, ci dica che cosa le è successo. Sì, buonasera. Il problema che si è verificato col mio forno a microonde è molto particolare. Per 3 volte è successo che il forno, invece di scaldare il cibo, ha scaldato addirittura a una temperatura altissima, tanto che si è rotto il piatto che conteneva il cibo, piatto in ceramica, e una volta anche il piatto in vetro in dotazione proprio al microonde. Ecco, per risolvere il suo annoso problema, che abbiamo? Per capire che succede nel forno a microonde, chiediamo a Davide Cassi, che sicuro risponde. Ecco, professore, lo scusi, lo so, sì. Purtroppo è la nostra new entry, ma potevamo farne a meno. Mi hanno assunto per questo. Ecco, professore, eccoci, lei è fisico della materia, lo sappiamo già, il nostro fisico Mungustaio. Che cosa rispondiamo a Franco? Allora, gli indizi non sono sufficienti, però sono comunque interessanti per iniziare l'indagine. A me è capitato qualche volta che si rompesse un piatto. Tipicamente succede quando si concentra troppa potenza in un punto del piatto, quindi quello si surriscalda rispetto al resto. Ora, quali possono essere i motivi? Uno è che il fuoco del microonde, per qualche strana ragione, in quel momento si è concentrato troppo in basso. Non il fuoco succedere. Si intende il punto in cui vengono convogliate tutte le onde. Esattamente, allora le onde, le microonde sono onde elettromagnetiche come le onde ottiche, e il forno a microonde ha un fuoco che è una zona in cui viene concentrato il massimo della potenza. Chiaro che un alimento che viene messo lì si scalda e brucia prima degli altri. Ci sono vari metodi per visualizzare il fuoco. Uno dei miei preferiti è usare dei grossi panetti di burro che vengono messi nel microonde togliendo il piatto. Si fa funzionare il microonde per qualche decina di secondi, poi si guarda dove il burro si è sciolto e lì abbiamo identificato la posizione del fuoco. Oppure usando un pezzo di cartone bagnato e andando a vedere dove si asciuga, o ancora stendendo uno strato più o meno sottile di pasta piuttosto umida. E vedere dove si asciuga. E vedere dove si asciuga e dove cuoce. Sono tutte tecniche ipotizzabili. Ecco, Franco, questo è un esperimento che lei già potrebbe fare. Poi misuriamo dove sta il fuoco e vediamo se da un giorno all'altro la posizione del fuoco cambia. Perché se per caso il fuoco si fosse abbassato troppo, arrivando a colpire direttamente il piatto, allora abbiamo capito che la ragione è quella. Un'altra possibilità che a me è capitata è che la parte più bassa dell'alimento, quella a contatto col piatto, assorbe troppe microonde, quindi si surriscalda ma trasferisce il suo calore al piatto provocando questo effetto. Questo mi è successo con degli amidi su un piatto di ceramica. Quindi la seconda domanda che pongo è se per caso la parte bassa dell'alimento, quella a contatto col piatto, si è surriscaldata. Franco? Direi di no, perché anzi era praticamente ancora congelato completamente. Leggermente più caldo, chiaramente sotto, perché il piatto era bollentissimo. E l'alimento era sempre un alimento congelato? Sì, una volta carne, una volta pane e un'altra volta delle pizzette. Perché questo è abbastanza importante, perché il ghiaccio assorbe le microonde molto meno dell'acqua liquida. Quindi se le microonde sono concentrate, diciamo a metà strada, cioè in modo da comprendere sia il piatto che la parte inferiore dell'alimento, quando l'alimento è ghiacciato la potenza viene assorbita a volte più dal piatto che non dall'alimento ghiacciato. Ma tutto sta ad indicare che abbiamo un fuoco comunque molto basso. Per cui dovremmo misurare innanzitutto la posizione del fuoco. Ma scusi, eventualmente si può regolare poi questa emissione di onde o no? Non è prevista questa regolazione, però andando a smanettare un pochettino la cosa è fattibile. Diciamo che il microonde è uno strumento molto rudimentale ancora oggi e la disuniformità del campo elettromagnetico col fuoco è un vero problema, tant'è che si usa il piatto rotante proprio per avere un'esposizione più omogenea dell'alimento alle microonde. Però eventualmente non ci sarebbe casomai una soluzione? Ci sarebbe, ma non è facile, perché bisogna andare a intervenire all'interno per riflettere le microonde in modo da cambiare la posizione del fuoco. No, Franco, non lo faccia, se la sente? No, assolutamente. Ecco. Se no può mettere il cibo sotto al piatto. Ah, ecco, anche questa è una cosa molto interessante. Ecco. Facciamo così, cerchiamo dove è il fuoco, poi ci ragioniamo sopra e troviamo una soluzione. Ah, va bene, allora rimandiamo l'appuntamento, insomma. Grazie Franco e grazie professore, come sempre. Grazie a voi, arrivederci. Chiara, hai una penna? Sì, eccola qua. Ah no, aspetta, ma ne ho una anch'io. Sì, quindi io la so dove vuole arrivare lui. Sì, no, Federico, io no però. No, voglio dire, io ho una penna e tu hai una penna. Bene. Se ce le scambiamo, tutti e due continueremo ad avere una penna. Esatto. Sì, una penna. Ma se invece io ho un'idea e tu hai un'idea, Chiara? No. No, vabbè, me ne faccio venire una. Allora, se tu hai un'idea e io ho un'idea e ce le scambiamo, dopo avremo ognuno di noi due idee. Avrà due idee, infatti. Geniale. Ah, vedi che bello? E quindi? Bellissimo. Questa è l'intelligenza collettiva, detta insomma in poche parole. Oh, mi piace. E di intelligenza collettiva parla un saggio di Michael Nielsen, che è un fisico americano. È uscito adesso il volume in italiano e si intitola Le nuove vie della scoperta scientifica, edizioni Einaudi. Per parlarne abbiamo Claudio Bartocci. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Claudio Bartocci, che è un matematico dell'Università di Genova. Allora Bartocci, ci spieghi un po', questa rivoluzione dell'intelligenza collettiva nel modo di procedere della scienza sembra una cosa inevitabile? Sì, sembra inevitabile. Beh, l'intelligenza collettiva di per sé non è una novità, nel senso che già a livello sociologico, per esempio, si parlava di intelligenza collettiva, è un'espressione coniata da un filosofo francese che va sotto il nome di Pierre Lévy. Il libro di Nielsen, invece, indaga una situazione particolare, cioè cosa succede quando gruppi di persone sufficientemente numerosi si trovano a interagire con gli strumenti resi disponibili dal web. In un certo senso il web, se forse ci rende individualmente più stupidi, ci renda collettivamente più intelligenti. Quando si vuole raggiungere un determinato obiettivo, mi sembra di capire, e quindi si utilizza una comunità vasta, è più mirata la definizione che esce da questo libro? Certo. Non basta ovviamente mettersi a digitare sulla tastiera oppure sedersi distrattamente a chattare perché il miracolo dell'intelligenza collettiva si produca. È necessario che vi siano una serie di condizioni, di requisiti soddisfatti. Prima di tutto è necessario che tutti siano d'accordo nel ricercare un comune obiettivo, ma che siano anche concordi nelle regole, regole di ragionamento, regole di comportamento. Nielsen parla di una prassi condivisa, questo è un primo punto. Poi è necessario che anche la collaborazione online sia di un certo tipo, cioè focalizzata, perché bisogna evitare che ci si disperda, sia dinamica, quindi non ci siano dei ruoli fissi assegnati, ma ci sia una possibilità, e modulare, in modo che quelle che sono le microcompetenze dei singoli possano affiorare. Poi una condizione molto interessante è quella che Nielsen chiama la serendipità pianificata. Serendipità è una parola che deriva dall'inglese serendipity e significa quel pizzico di fortuito che spesso si trova nelle scoperte scientifiche. Bene, la si può canalizzare questa serendipità, e l'ultima ma forse più importante condizione è che ci sia un numero sufficientemente alto di persone, cioè una massa critica. Ecco, e questa intelligenza collettiva è interessante anche perché il rapporto può avvenire su più piani, cioè ci può essere una collaborazione tra scienziati che quindi si confrontano su temi che conoscono tutti molto bene, però può anche essere una collaborazione intraspecialistica, cioè tra scienziati di diverse discipline che magari si completano perché l'approccio matematico che serve a un fisico magari il fisico non lo conosce così bene. Ma non solo, può intervenire anche la società nel suo insieme, cioè può esserci anche una differenza di livelli di preparazione oltre che di ambiti di preparazione, e qua si tocca il tema della citizen science, insomma del coinvolgimento del cittadino nel fare scienza. Sì, certamente. Io forse separerei le due cose, la collaborazione online e gli esperimenti anche di citizen science che sono stati messi in atto, permettono una circolazione, come ha detto lei, su più livelli delle idee e delle competenze. Questo è importante, non solo i fisici imparano dai biologi, i biologi imparano dagli astronomi e così via, ma spesso persone che non sono, diciamo così, accreditate come scienziati hanno qualcosa da insegnare e anche qualcosa da imparare, possono avere delle competenze che si dimostrano molto preziose. Secondo, c'è un aspetto invece di circolazione generale della conoscenza, e questo è importante per le democrazie avanzate. Molti temi non si possono affrontare se non sapendo di che cosa si parla, dai temi degli OGM fino alle energie rinnovabili. Per fare questo è necessario avere della conoscenza condivisa, è necessario che tutti possano accedere non soltanto a informazioni, come dire, di seconda mano, ma di primissima mano, cioè alle banche dati, per esempio, agli articoli originali. Ecco, ma facciamo invece qualche altro esempio di collaborazione, perché è già in atto questa rivoluzione. Ci sono degli esempi che si possono fare di diverso tipo, per prenderne due significativi. Su un blog di un matematico inglese, Timothy Gowers, una delle stelle della matematica di oggi, è reputato tra i matematici più influenti della sua generazione. Bene, sul blog di Gowers è stato aperto un problema piuttosto tecnico al quale poteva contribuire chiunque. La discussione non è rimasta confinata a pochi specialisti, ma si è allargata fino a comprendere qualche centinaio di persone. Non è moltissimo forse per le scale del web, ma è tantissimo invece per quella che sono le dimensioni tipiche delle collaborazioni matematiche. In questo modo si è reso molto più rapido quel processo di scoperta e di perlustrazione di nuove idee che è tipico della scoperta matematica. Un altro esperimento completamente diverso è quello di Galaxy Zoo, che è un progetto online nel quale vengono reclutati dei volontari per classificare immagini di galassie. È un esperimento che tutti gli ascoltatori possono fare, Galaxy Zoo, si entra in questo sito e si hanno delle immagini davanti e bisogna rispondere a delle domande apparentemente semplici. La galassia che vedete è ellittica oppure a spirale? Se è a spirale, come sono disposti i bracci? E così via. In realtà si è creata una comunità di esperti e di appassionati. Ecco, in questa comunità sono state fatte delle scoperte, per esempio sull'esistenza di nuovi tipi di galassie. Sembra incredibile, cioè, questo mi sembra qualcosa di nuovo anche, che i filosofi della scienza forse dovrebbero considerare con attenzione, perché ci dice qualcosa di nuovo anche sui meccanismi della scoperta. Qui, Bartocci, mi sembra che venga fuori una cosa che in effetti alcuni filosofi della scienza, alcuni storici hanno detto nel tempo, e cioè che c'è tutta quella parte fatta di intuizioni, di metafore, che non è assolutamente formale e che però è la premessa alla scoperta. Sì, e c'è anche la necessità in un certo senso di guardare le cose con occhi nuovi, con uno sguardo inedito, anche ingenuo o vergine se si preferisce. Questa tensione fra il vecchio e il nuovo è tipica dello sviluppo della scienza. Naturalmente non bisogna essere ingenui né esageratamente ottimisti, non è che ci aspettiamo adesso di risolvere qualunque problema in questo modo. In qualche modo forse gli ascoltatori l'avranno già intuito, ma insomma vi riporto alla realtà, al nostro quiz che abbiamo dato qualche minuto fa, e dicevamo un po' di anni fa il grande giocatore Kasparov, considerato appunto il più grande di tutti i tempi, gioca una strana partita a scacchi. Contro chi, Bartocci? Giocò contro il mondo, cioè fu una partita online nella quale ognuno era libero di entrare in un certo sito e di votare per la mossa successiva. In tutto i giocatori furono 50.000 di 75 paesi diversi. La cosa sorprendente fu che la partita non fu affatto una passeggiata per Kasparov, dovette soffrire. In un certo senso la collaborazione online, l'intelligenza collettiva lo aveva messo in serie difficoltà, e poi la partita finì a favore di Kasparov per un errore, questa volta un'ingenuità. Si può essere anche stupidi online. Quindi la risposta giusta era la 1. Bene, allora ringraziamo Claudio Bartocci. Sono io che ringrazio voi. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara e Alberto, adesso mi raccontate qualcosa voi. Sì, Federico, prendiamo la parola adesso che l'ora è tarda. I bambini sono andati a dormire. Alberto, possiamo parlare di... Possiamo parlare di alcol e anche di sesso. Sì, tranquillizzatevi però, non umani. No, non parliamo di esseri umani, ma parliamo di moscerini, moscerini della frutta. Drosophila melanogaster, per chi se ne intende. Celeberrimi. Sono molto diffusi, sono molto famosi tra i biologi e i biotecnologi, perché di loro si conosce tutto, si conosce il genoma, sono molto molto studiati, quindi nei laboratori sono conosciutissimi e famosissimi. Però... qui ne parliamo perché? Perché per continuare a scoprire cose più che su di loro, sugli esseri umani, gli si fa fare di tutto e in questo caso li si fa ubriacare. Sì, diciamo che non è la prima volta. No. Non sono esperimenti rari. Già nel 2008 su Nature si parlava di una ricerca che appunto faceva vedere come l'esposizione all'alcol li rendeva sessualmente più attivi, vigorosi. E anche qui c'è un legame evidentemente con quello che succede al genere umano. Poi si è visto che l'alcol comunque anche nei moscerini può dare dipendenza, cioè crea piacere e quindi una dipendenza, una voglia di continuare a farlo. E oggi? E oggi su Science, la notizia è di 2 giorni fa, è uscita una nuova ricerca dell'Università di California a San Francisco, secondo cui invece la mancanza di sesso induce i moscerini a consumare più alcol. Che un po' funziona anche per noi così, forse, non lo so. Comunque i ricercatori hanno scoperto una molecola a doppia azione prodotta dal cervello che mette in relazione la vita un po' depressa sessualmente e la voglia di consumare alcol. E questa stessa molecola potrebbe essere collegata alla dipendenza anche dell'uomo. E poi c'è di più, chissà se un giorno scopriranno che anche i moscerini portano fuori le femmine a bere. In apertura di trasmissione, nei nostri titoli, Federico, ci sei? Ci ci sono, eccomi. Dicevamo, qua. Molti la definiscono la missione più difficile addirittura per la ricerca scientifica: scoprire che cos'è la coscienza. E forse il funzionamento dell'anestesia potrebbe fornirci una parte della soluzione, ma com'è possibile, Federico? Com'è possibile lo chiediamo a Marcello Massimini, che è qui con noi questa sera. Massimini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Neurofisiologo, medico neurofisiologo e ricercatore presso l'Università di Milano, e sì, lei si interessa e fa ricerca in particolare su questo tema dell'anestesia. Beh, certo, perché con l'anestesia noi perdiamo, e la perdiamo proprio profondamente, coscienza. Questo tema, cioè la possibilità di capire questa percezione che noi abbiamo di noi stessi, sì, molti lo considerano come una grandissima sfida scientifica, perché certo siamo noi che cerchiamo di capire come siamo fatti, no, Massimini? C'è chi dice che l'anestesia potrebbe darci una finestra per comprendere questa cosa. Intanto però, inizialmente, anche i meccanismi profondi dell'anestesia non sono ad oggi così chiari, no? No, diciamo che per quanto funzionino molto bene gli anestetici e siano assolutamente affidabili, abbiamo certamente delle idee su come funzionano, ma poi alla fine il meccanismo vero, sappiamo che agiscono su certi canali dei neuroni, su certe sinapsi, su certi neurotrasmettitori, però poi in ultima analisi non sappiamo bene perché la coscienza se ne va, perché non abbiamo ancora ben capito da che cosa dipende la coscienza. Che cosa dico, certo. Il problema è un po' questo, è ancora una scienza empirica da questo punto di vista, la farmacologia dell'anestesia, perché ci manca proprio la chiave interpretativa di fondo. C'è anche l'aspetto appunto dell'anestesia totale e dell'anestesia ad esempio locale, per cui si perde coscienza un po' sì un po' no. È veramente strano, sì. Esatto, com'è possibile questo? No, la verità è che, diciamo, l'anestesia loco-regionale piuttosto che l'anestesia spinale o epidurale, cioè quelle anestesie che bloccano l'arrivo degli stimoli sensoriali al cervello, non implicano assolutamente una perdita di conoscenza. Certo. È una perdita di sensibilità specifica per determinati distretti corporei, no? Che possiamo indurre bloccando il nervo, ma questo non ha nulla a che fare con la coscienza, perché noi possiamo essere coscienti anche quando siamo completamente disconnessi dal mondo esterno. Questo ce lo dice l'esperienza quotidiana, anzi notturna, del sogno, quando noi siamo coscienti ma disconnessi, ma ce lo possono dire anche i pazienti che vengono sottoposti ad anestesia generale, totale, per cui in alcuni casi, quando facciamo anestesia generale, tendenzialmente paralizziamo anche il paziente. In che modo, Massimini, con dei farmaci, con dei farmaci che bloccano la trasmissione neuromuscolare. Ah, quindi l'anestesia stessa, lei dice, produce una paralisi del sistema. No, in realtà sono farmaci diversi che si utilizzano. Si utilizza l'anestetico per rendere il paziente cosciente e contemporaneamente si somministra un farmaco che paralizza il paziente in modo da rendere facile l'intervento. Ah, ecco, sono due cose diverse. Sono due cose diverse, perché non ci siano movimenti mentre aprite delle pance, insomma. Sì, a questo punto, una volta fatto ciò e somministrati due farmaci, il paziente è paralizzato e presumibilmente incosciente. Può tuttavia accadere, e questo nessuno si deve spaventare perché è un evento molto raro, però che succede, che il paziente recuperi coscienza mentre è paralizzato. Mamma mia. E questo succede perché in alcuni casi è una questione idiosincrasica, in alcuni casi l'anestesia non è efficace. E questo recupero della coscienza è effettivo, e noi lo sappiamo perché dopo i pazienti si risvegliano comportamentalmente, perché durante, mentre sono paralizzati chiaramente non possono dire niente. Voi vi immaginate che situazione è, no? La situazione di una paralisi totale, sapere di essere sul tavolo operatorio è piuttosto angosciante. E questi pazienti riferiscono dopo di questa esperienza, in alcuni casi è piuttosto traumatica, in altri è un ricordo. Però ci dicono chiaramente che può accadere che ci sia questa dissociazione tra la capacità del paziente di dire che è cosciente e il suo effettivo stato interno, perché è paralizzato. Ma dopo tutto questo succede, mi piace sempre ricordarlo, anche quando sogniamo. La coscienza è generata da dentro e non dipende dal fatto che noi siamo connessi all'esterno. Questo succede durante il sogno e purtroppo può anche succedere in alcuni pazienti con lesioni cerebrali, che sono completamente coscienti ma incapaci di segnalarlo perché paralizzati o perché magari anche incapaci di ricevere informazioni da fuori, quindi di rispondere ai comandi efficacemente. Questo però non c'è un modo per capirlo noi che siamo all'esterno, non c'è un modo. Guardi, attraverso l'attività neuronale, non esatto, so. Esatto, ecco. Allora la sfida di capire i correlati neurali della coscienza, che alcuni filosofi dicono è una sfida destinata a fallimento, però è necessario da un punto di vista clinico, etico, eccetera, perché noi non possiamo permetterci di identificare la coscienza con un surrogato così banale come il comportamento e la capacità di segnalarla, sapendo che la coscienza è generata dentro. E quindi dobbiamo capire quali sono i meccanismi che la generano per poterli misurare. Questa misura adesso ancora non ce l'abbiamo. Ci sono dei tentativi, no? Gli anestesisti usano una speciale analisi dell'attività elettrica del cervello che si chiama indice bispettrale, è un nome un po' strano, che comunque è un modo per avere un'idea, leggendo l'attività elettrica cerebrale, del livello di coscienza del soggetto, ma non è affidabile perché non sappiamo bene se quello è il vero meccanismo, no? Anche quello è un surrogato, magari un po' più vicino, ma sempre imperfetto. Si tratta di capire bene che cosa conta, e la ricerca sull'anestesia ci dice che quello che conta sostanzialmente sono le connessioni interne al cervello. Questo si inizia a capire. Infatti gli anestetici bloccano delle zone. Una si chiama talamo e l'altra si chiama precuneo, che è un posto del cervello dietro, che sono degli hub di connettività. Dei grossi centri. Quelli degli aeroporti. Sì. Come fosse Malpensa, no, mi verrebbe da dire Malpensa, ma non è più un hub. Francoforte, ecco, diciamo Francoforte. E quindi bloccando Francoforte si blocca tutto il circuito, l'intensa comunicazione all'interno del cervello in modo molto critico, e questo si pensa sia uno dei meccanismi fondamentali. Allora non scherzavamo insomma nei titoli quando dicevamo che è veramente una delle missioni più difficili. Lo è, infatti è una delle grandi sfide. Diciamo che è da fare comunque, è una via da perseguire, quella di capire da cosa dipende, quali sono i segni della coscienza del cervello, perché ripeto, non possiamo permetterci di valutare la coscienza così superficialmente. Questo in nome dei pazienti che sono coscienti e magari chiusi dentro per via di una lesione cerebrale, in parte in nome dei pazienti che vengono anestetizzati, paralizzati e che recuperano coscienza, ma anche perché è diciamo un soggetto particolarmente interessante dal punto di vista scientifico. Beh, certo, indubbiamente stiamo parlando della cosa più profonda che riguarda noi stessi. C'è però un fattore abbastanza interessante, cioè ci sono dei farmaci, quindi delle molecole che intervengono e agiscono e ci tolgono coscienza, ci tolgono questa percezione. Possono essere tantissimi diversi e quindi vengono usati alcuni che sono, diciamo, quelli più gestibili, che hanno meno effetti collaterali, oppure, voglio dire, studiando la relazione tra questo tipo di molecole e l'effetto che producono, in fondo non abbiamo, come dire, una traccia su cui studiare. Insomma, ci sono delle molecole che ci tolgono coscienza, no? Sì, l'ideale sarebbe trovare qual è l'aspetto comune che cambia quando utilizziamo diverse molecole con strutture chimiche diverse che però tutte determinano la perdita di coscienza. Lo stesso effetto. Se abbiamo un comune denominatore, allora quello verosimilmente ha molto a che fare con la coscienza. Le dicevo, questo minimo comune denominatore è la connettività, è la soppressione degli hub di connettività nel cervello. Va bene, Chiara, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Assolutamente sì. Per chiarire questo mistero. Però, insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, mi pare di capire. Quindi buon lavoro, Massimini. Grazie. Buon lavoro, Massimini. E Alberto, vieni in studio che dobbiamo fare i saluti. Ah, dov'eri? Sì, eccomi, ma c'ero, è che avevo perso coscienza. Ah, ti eri anestetizzato, Federico. Sì, purtroppo anche oggi. E uno dei grandi misteri è anche l'incoscienza, no, di alcuni, che si riuscirà a capire, spero, forse anche prima. Io non so se riusciremo mai a capirla, quella di Alberto. Non so di chi. Ah, ecco. Non so di chi. Ragazzi, il tempo è terminato, dobbiamo chiudere. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, a sabato prossimo. Ciao Chiara, ciao Alberto, e buona serata, buona settimana a tutti.